L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio a tutti, torniamo a parlare di acqua in questa puntata. Facciamo un passo indietro al mese di giugno e tiriamo oggi le conclusioni della seconda Smart Water Forum Conference che si è tenuta alla Casa dell'Energia di Milano. Forum sulla gestione delle risorse idriche attraverso sistemi di misurazione intelligente, quindi attraverso contatori e rilevatori simili a quelli che si utilizzano ormai diffusamente per l'energia elettrica e il gas. Misuratori che consentono una miglior gestione e controllo della risorsa, quale essa sia. Avevamo anticipato i contenuti del forum con il coordinatore, il professor Furio Cascetta, direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale della Informazione presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Allora ripartiamo con Cascetta, che alla fine dei vari incontri ci ha tratto un po' le conclusioni della discussione. Si è appena concluso il secondo Smart Water Forum Conference, la conferenza sullo smart metering, sull'importanza della misurazione nel mondo dell'acqua e dei servizi idrici integrati. L'edizione di quest'anno è stata particolarmente soddisfacente per noi dell'organizzazione, ma ho visto anche dai partecipanti. Abbiamo avuto significative presenze, la presenza dell'Authority che ha ribadito una sua grande sensibilità nei confronti del tema della misurazione. Abbiamo avuto le unioni dei consumatori, personaggi diciamo importanti nella catena, nella filiera della misura, perché sono coloro che poi dovranno beneficiare dei vantaggi dello smart metering. Abbiamo avuto anche una buona e significativa rappresentanza di utility, di aziende di distribuzione di acqua, gas e multiservizi che stanno sperimentando servizi e tecnologie diciamo di smart metering. Le aspettative sono ottime, avremo entro fine anno già dei risultati delle sperimentazioni nazionali al nord, al centro e al sud. Ci auguriamo che la terza conferenza possa riportare questi nuovi risultati e possa dare nuovo slancio a quella che noi chiamiamo l'importanza e l'etica della misura e dello smart metering, la cultura della misura e la civiltà di un paese. Cascetta ci ha introdotto i prossimi ospiti, saranno ovviamente i consumatori, le aziende e l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Ecco, presso l'autorità Eleonora Bettenzoli è responsabile del settore unità, qualità, risorsa idrica e misura nella direzione sistemi idrici e le abbiamo chiesto quali siano gli obiettivi dell'autorità nella misurazione idrica. In questo primo periodo regolatorio, ma già nelle linee strategiche anche per gli anni successivi, in termini di misura l'autorità ha un grande unico obiettivo, che è che i volumi del sistema idrico integrato, quindi sia quelli consegnati ai consumatori sia quelli lungo tutta la filiera del servizio, siano effettivamente determinati e diciamo la situazione di stima, di valori stimati siano situazioni residuali. Questo passa quindi da un buon servizio di misura che i gestori devono garantire sulla filiera e all'efficienza di questo noi siamo orientati e stiamo lavorando per. Non è prioritario però in questo obiettivo l'installazione di questi smart meter. Come mai non lo ritenete una priorità? Allora, lo smart meter e tutto il sistema che ci sta dietro è una tecnologia comunque sofisticata e con un certo impatto economico. La valutazione costi-benefici che fin qua abbiamo condotto non ci conduce a pensare che sia una soluzione sempre ottimale, che diciamo che porta sempre la soluzione per qualsiasi situazione. Detto questo, lasciamo, come per gran parte delle individuazioni di necessità di investimento, alle autorità locali il compito di stabilire se questa invece è una necessità che può risolvere qualche problematica specifica, e dagli nostri approfondimenti quello che posso dire è che la situazione dell'acqua è molto diversa dagli altri due settori che noi regoliamo, cioè l'energia e il gas, cioè le necessità che potrebbero venire ad essere affrontate con questa tecnologia, diciamo che gli altri due settori quasi non ne risentono, e che sono una tecnologia che potrebbe aiutare l'efficienza idrica, quindi il risolvere il problema delle dispersioni o quantomeno portare le dispersioni e le perdite di acqua, di risorsa ad un livello fisiologico accettabile. E altro aspetto che è completamente diciamo diverso rispetto agli altri due e invece sono le cosiddette perdite occulte, ovvero le perdite, la dispersione della risorsa dopo il punto di consegna, dopo il contatore, cosa che non è nell'ambito di responsabilità del gestore del suo servizio regolato e quindi dell'autorità che lo regola. Ma è vero che una situazione di smart metering potrebbe aiutare a individuare proprio queste situazioni di anomalie, di perdite di acqua dentro l'impianto privato del consumatore. L'autorità accompagna diciamo, un certo numero di sperimentazioni in Italia in un'ottica più ampia di smart city, quindi futura e non immediata, questo è? Sì, sì. Sì, sì, diciamo a partire... da qualche anno fa, in realtà partendo dallo smart metering gas, si era intuito che questa implementazione di infrastruttura per il gas avrebbe potuto in realtà essere un po' il supporto per una dinamica di servizi più ampia e quindi si è avviata questa procedura di progetti pilota parzialmente sovvenzionati dall'autorità e quindi da una quota in tariffa del servizio gas di multiservizio, cioè dopo si è ampliato questo concetto a una idea di pilota di impianti che con un'unica rete di telecomunicazione possono servire più servizi in remoto, in telematico. Quindi abbiamo il gas, l'acqua, i rifiuti, l'illuminazione pubblica. E diciamo che dati questi avviato il bando insomma per conferire questi piloti a questa sovvenzione, il riscontro è stato esattamente questo, cioè che in realtà chi ha risposto ha proprio risposto non tanto per fare un multiservizio gas e o elettricità o acqua, ma gas, acqua e gli altri, quindi con una ricchezza maggiore di in un'ottica appunto di smart city completa. La ringrazio. Non convintissima quindi Bettenzoli di un uso estensivo degli smart meter, i misuratori intelligenti per l'acqua. Cosa ne pensa di questa posizione Raffaele Di Stefano, avvocato e garante del servizio idrico integrato della Regione Lazio? L'Authority è la principale autorità di regolamentazione, non è l'unica, nel senso che nel servizio idrico concorrono più soggetti. Ci sono gli enti di governo d'ambito, ci sono le regioni, c'è anche il governo. Il problema della Smart City è sicuramente un problema di grande attualità, ma esiste prima della Smart City un problema di lealtà contrattuale fra l'utente e la società di gestione. L'utente non può scegliere con chi contrattare e la società di gestione dall'altra parte è obbligata a contrattare con l'utente. L'unico elemento di certezza in questo rapporto vincolato è la misura del consumo e allora sulla misura del consumo bisogna agire, non solo attraverso il sistema di telelettura, che significa che la società di gestione ha a disposizione il dato senza bisogno di vantare il letturista, ma attraverso invece un sistema smart, vuol dire che i dati sono condivisi e come dal contatore parte le informazioni sui volumi di consumi, queste raggiungono contemporaneamente la società di gestione e l'utente. Questo permette un rapporto più trasparente fra le due parti e l'eliminazione di gran parte dei contenziosi e delle diffidenze. Oggi le società di gestione si lamentano di una indisponibilità degli utenti a pagare in maniera adeguata un servizio idrico che comunque è costoso. Gli utenti molte volte si lamentano di poca trasparenza da parte delle società di gestione che, a giudizio degli utenti, approfittano di un monopolio di fatto. Ecco, il dato condiviso, immediatamente fornito all'uno e all'altro, è sicuramente il presupposto di una pace contrattuale e di una corretta definizione dei rapporti contrattuali. Senza questo, gli utenti continueranno a non avere fiducia della società di gestione e magari la società di gestione di sentirsi non adeguatamente remunerata per il servizio. In ultima analisi, forse così gli utenti saranno anche disponibili forse a pagare di più laddove sarà necessario il servizio idrico completo, da dove preleviamo l'acqua fino al trattamento, no, degli scarichi. Esattamente. Gran parte del servizio idrico è sottoterra e non si vede. E questo è un problema. Però quello che, di cui i cittadini hanno contezza è la qualità del servizio. In questi anni la bolletta idrica è aumentata molto di più della qualità del servizio percepita, e questo è un problema, deve essere recuperato. L'informazione è l'elemento centrale. Perché l'informazione sia accettata bisogna che sia immediatamente condivisa, quindi deve essere bidirezionale. Il cittadino deve sapere da subito quelli che sono i suoi consumi, anche per fare le sue politiche domestiche. Consumo di meno, consumo in certe fasce orarie, mi attrezzo come ritengo per contenere, e dall'altra parte la società di gestione, che si trova ad avere a quel punto un dato già conosciuto dall'utente e non bisogna litigare per accertare quello che sono gli effettivi volumi fatturati. Il Lazio tra l'altro particolarmente ha delle situazioni particolarmente difficili sull'acqua, cioè, non so se vuole affrontarle però. Il Lazio è sicuramente una regione nella quale rispetto al problema acqua c'è molto da fare. Ci sono regioni purtroppo che hanno condizioni ancora più critiche, ci sono regioni invece nel quale il sistema è gestito con una maggiore efficacia. L'autorità sta cercando di omogeneizzare dal punto di vista, l'autorità per l'energia e il gas ovviamente e il servizio e il sistema idrico, sta lavorando per cercare di omogeneizzare la qualità dei servizi per tutta l'Italia. C'è molto da fare, le società di gestione possono fare a mio avviso molto di più, quelle del Lazio in particolare possono fare ancora di più, e quindi c'è amplissimo margine di miglioramento del sistema, in particolare sulla depurazione e sulla garanzia di un servizio che dia acqua di una qualità buona e in quantità necessaria. Ancora consumatori con Marina Varvesi, responsabile area innovazione di ICE4, una società di formazione e consulenza nel settore green. Varvesi segue in particolare il progetto europeo You Smart Consumer, fortemente voluto dalla Commissione europea e lanciato il 1 marzo 2014 per la formazione di consumatori smart, non solo di contatori smart. Noi come società ICE4 partecipiamo in diversi progetti proprio per lo sviluppo dello smart metering, e devo dire che c'è una forte attenzione da parte dell'Europa e poi a cascata in tutti i paesi membri per supportare questo sviluppo dello smart metering, che effettivamente comporta una serie di vantaggi innumerevoli sia per i consumatori ma per gli stessi operatori, e a dimostrazione appunto di tutto quello che è la volontà, le politiche comunitarie. Per quanto riguarda la nostra esperienza diretta, noi siamo partner di un progetto europeo che si chiama You Smart Consumer, che è focalizzato proprio nella promozione degli smart meter nel settore soprattutto energetico. Quindi parliamo di energia elettrica. Quello che abbiamo notato nel primo anno di sviluppo del progetto è che il consumatore, anche se l'energia ha una sensibilità maggiore rispetto all'acqua, nonostante questo il consumatore è ancora ignaro di quello che è lo smart meter, di quelli che possono essere i benefici anche per lo stesso consumatore di un sviluppo dello smart metering, di quelli che possono essere i benefici da una serie di servizi innovativi dovuti allo smart metering, tant'è che considera ancora la bolletta elettrica come una tassa da pagare assolutamente svincolato da quello che può essere il suo comportamento, e che ci fa capire che effettivamente c'è un grandissimo lavoro a partire proprio dalla sensibilizzazione, educazione del consumatore e anche sugli operatori, proprio per riuscire a ottenere un coinvolgimento maggiore dei consumatori in questo settore dello smart metering, proprio per arrivare allo sviluppo dello smart meter. Ora dobbiamo fare una pausa, proseguiamo tra poco sempre con i misuratori intelligenti per l'acqua. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio, stiamo parlando in questa puntata della seconda Smart Water Forum Conference che si è tenuta a Milano il mese scorso e lo stiamo facendo attraverso gli ospiti del forum che ricordiamo è stato dedicato agli strumenti per la misurazione che potrebbero essere utilizzati nel servizio idrico integrato, così come si fa per l'energia elettrica e il gas. Strumenti che sono sul mercato ma che sono poco utilizzati. Un po' perché l'autorità nazionale, come abbiamo sentito, non insiste molto per ora sulla misurazione nelle nostre case, preferendo per ora puntare sulla misurazione dei volumi complessivi dei consumi e del trattamento delle acque. L'altro motivo per cui poco si fa è che bisogna investire, e tanto. Ma alcune aziende lo hanno fatto, in parte in proprio, in parte rientrando nei progetti di sperimentazione promossi con la delibera 393 del 2013 dell'autorità appunto per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici. IREN, ad esempio, l'ha fatto con il progetto Multiutility, di cui ci parla Stefano Cagnoli, responsabile servizio per la distribuzione di IREN. Allora, il progetto è un progetto che coinvolge la società IREN S.p.A. e tipicamente è partito come promotori dai distributori del gas del gruppo, che sono IREN Emilia e Genova Reti Gas, e i territori coinvolti sono appunto i territori emiliani di IREN, quindi la città di Parma, la città di Reggio Emilia, in parte anche una piccola zona della Piacentino e la città di Genova. Questo progetto coinvolge quindi trasversalmente tutti i servizi di IREN, perché attiene prevalentemente i contatori del gas e dell'acqua, però si estende ai contatori elettrici che noi abbiamo a Parma e al teleriscaldamento, e da ultimo anche una piccola sperimentazione sul sistema di raccolta dei rifiuti. Quindi parliamo di veramente un progetto di smart city, non è limitato a un ambito. No, infatti, ovviamente ciascuno dovrà fare il suo mestiere, il distributore dovrà fare il suo mestiere, chi vende servizi tipicamente nei settori unbundlizzati, quindi parlo del gas e dell'energia elettrica oggi, dovrà fare la sua parte, ma soprattutto quello che noi crediamo necessario è quello che il cittadino sostanzialmente sia al centro di questo progetto, perché è lui che paga. La famosa signora Maria che diceva prima che deve aprirvi le porte e consentire questa rivoluzione in casa sua, perché poi il contatore sarà quello domestico che conta. Esatto. Diamo qualche tempo, quando siete partiti, obiettivi di medio termine, di lungo periodo, quali sono? Dunque, per quanto riguarda il pilota, ha dei tempi che sono scanditi dalla delibera, ma di fatto si concluderà nel 2016. 14.000 sono i punti? No, sono 16.500 tra tutti i servizi, prevalentemente, ripeto, circa il 70% sono punti gas, e quello che sarà l'obiettivo del progetto, la tempistica del progetto è appunto quella di concludere la sperimentazione, cioè fornire all'autorità tutta una serie di informazioni che lei ha strutturato e che ci ha già richiesto entro il 2016. Quindi c'è una fase iniziale che è questa, che si concluderà presumibilmente col mese di ottobre-novembre, dove noi andremo a installare i misuratori. Poi c'è il lavoro. Poi, dopodiché, una volta che saranno installati i contatori, nel mentre stiamo anche realizzando tutte le infrastrutture necessarie per poter teleleggere i contatori, per poter poi gestire i dati all'interno dei sistemi di fatturazione, di comunicazione dei dati alle società di vendita, affinché loro stesse potranno poi fatturare il gas, l'energia elettrica, l'acqua ai clienti finali. Tutta una serie di attività molto complesse, perché nuove, che noi in questo periodo stiamo implementando. A regime si suppone si possa andare entro la fine dell'anno, e quindi il 2016 sarà l'anno della vera sperimentazione. Antonio Caggiano è invece responsabile Technology and Network di Acquedotto Pugliese. Anni fa gli acquedotti di Puglia non erano famosi per l'efficienza, poi dal 2005 l'innovazione è diventata l'imperativo categorico. Acquedotto Pugliese ha da lungo tempo lavorato, perché stiamo parlando del 2005, lavorato con la parte di telelettura, esatto. Adesso avviandoci allo smart metering, sì. Quindi state vivendo tutte le fasi, diciamo. Tutte le fasi. Chi deve fare questo percorso adesso? da dove può cominciare, diciamo, già avendo voi vissuto tanti passaggi, ce ne sono tante invece di acquedotti che non l'hanno fatti questi passaggi. Eh sì, certo, non c'è un inizio determinato, insomma. Bisogna partire via, insomma. Noi siamo partiti con progetti pilota, quindi sicuramente, diciamo, chi vuole affrontare un percorso di telelettura, innanzitutto ci deve essere un commitment aziendale che vada in questa direzione, e poi bisogna fare la scelta della tecnologia. Noi le abbiamo, tra virgolette, quelle attualmente in commercio, quelle disponibili sul mercato, le abbiamo provate. Abbiamo provato la telelettura a rete fissa, abbiamo provato la lettura walk by, GSM punto punto, e stiamo partecipando a questo, diciamo, progetto di telelettura multiservizio, che è la novità, quindi in collaborazione con altri partner, gestori di distribuzione gas, energia elettrica, pubblica illuminazione. I partner sono Amgas e nel distribuzione il Comune di Bari. E quindi, diciamo, partecipiamo a questo progetto dove in particolare per l'acqua stiamo sperimentando la telelettura in 169 MHz. Ecco, questo lei ha toccato uno dei punti che sono afferrati oggi in generale, anche il dover, adesso voi fate pilota ovviamente, però sono anche investimenti economici, quindi quando uno poi si trova a dover scegliere tra uno standard e l'altro, tra un sistema e l'altro, come fa a affrontare questa scelta senza sapere quale sarà la normativa in futuro, quale sarà lo standard? L'auspicio è proprio questo, l'auspicio è che parallelamente a quanto è avvenuto nel settore del gas, dove CIG e UNI hanno normato la frequenza di comunicazione, l'auspicio è che a valle di questa sperimentazione, che ha proprio questo scopo, cioè quello di provare la telegestione multiservizio e quindi vedere come le varie tecnologie, perché diciamo i progetti ovviamente sono diversi tra di loro e hanno scelto delle soluzioni tecnologiche differenti, quindi l'obiettivo di questa delibera, probabilmente dell'Authority, è quello proprio di verificare le tecnologie oggi disponibili e le varie soluzioni che stanno applicando coloro che hanno partecipato al progetto. Salvatore Molè, in ERA, quindi torniamo in Emilia Romagna, ricopre il ruolo di direttore centrale innovazione. Anche ERA sta portando avanti delle sperimentazioni imponenti. Il progetto dello smart metering per noi riguarda tutti i servizi che ERA eroga sul territorio, quindi non solo l'acqua, non solo il servizio idrico, ma anche il gas, l'energia elettrica, il teleriscaldamento, quindi il calore, e abbiamo aggiunto anche il concetto di controllo dei servizi ambientali sul territorio, quindi il progetto che abbiamo realizzato copre tutti i servizi che ERA eroga in quel territorio. Il territorio in questione è quello del Comune di Modena. È quello del Comune di Modena, con una particolare attenzione alle diverse tipologie di zone del Comune di Modena, quindi abbiamo individuato sia zone ad alta densità, sia zone a media o bassa densità, per poter testare tutte le condizioni di controllo del territorio e di ricezione del dato dai contatori. 13.000 sono gli utenti coinvolti, ai quali viene sostituito il contatore, come funziona? Viene sostituito il contatore in alcuni casi, come ad esempio nel caso del gas e nel caso dell'acqua, viene aggiunto un dispositivo al contatore già installato nel caso dell'energia elettrica, nel caso del calore, quindi del teleriscaldamento, anche qui viene aggiunto un dispositivo all'attuale contatore, e per i servizi ambientali, dove controlliamo il livello di riempimento dei cassonetti, viene installato anche lì una sonda che controlla il volume occupato all'interno del cassonetto. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di comprendere se possiamo utilizzare un'unica tecnologia, che è la tecnologia in radiofrequenza, per i tecnici a 169 MHz o a 368 MHz, per ricevere tutti i dati relativi ai dispositivi presso le utenze. Quindi il dato del contatore dell'acqua, così come il dato del contatore del gas o il dato del contatore dell'energia elettrica, ma anche la telegestione di questi contatori, quindi l'apertura o la chiusura di questi questi contatori o il controllo del consumo dei clienti ottenibile attraverso il sistema in radiofrequenza. Il contatore emette un segnale che viene recepito da un concentratore e poi tramite il normale percorso come quello dei telefonini, quindi tramite il wireless, viene trasferito al nostro sistema centrale. L'obiettivo è quello di avere le città completamente coperte da questi concentratori in modo da poter recepire qualunque tipo di segnale erogato dai dispositivi a bassissimo consumo di energia, quindi senza la necessità di dover andare a sostituire con frequenza le batterie di questi dispositivi. L'ingegner Molè ci ha introdotto l'ultimo passaggio, e cioè quello della trasmissione dei dati una volta raccolti. La seconda Water Forum Conference, come del resto la prima, è stata organizzata da Sensus, azienda multinazionale specializzata in prodotti per la misura dell'acqua. Adria Presas Ortega, direttore vendite Sensus per l'Europa del Sud, ci dice quale potrebbe essere il contributo di aziende come Sensus in questa partita, vista la loro esperienza internazionale. Lo smart metering non è solo di contare accuratamente e trasmettere i dati, ma cosa si fa con questi dati? Questi dati devono servire non solo per l'azienda, per la utility, per gestire meglio, per fare un migliore bilancio idrico, ma deve servire anche per gli utenti, per dare servizio agli utenti. E questo è veramente il senso di uno smart metering, che sarà collegato a quello che è una smart city. Se parliamo del smart metering senza parlare delle smart city, stiamo facendo un errore vitale, penso. L'ultima cosa che le voglio chiedere, visto proprio che voi lavorate in tanti paesi, è che tipo di scelte sono state fatte sulla frequenza? Qualcuno le ha già fatte? Sì, sono scelte nell'acqua, è l'868, c'è il 169, il 433, queste sono le frequenze libere. Noi abbiamo un sistema che abbiamo già più di... penso che sono 16 milioni di punti di lettura. Punti di lettura vuol dire contatori di elettricità, di acqua, di gas collegati, soprattutto negli Stati Uniti, che è un sistema con una frequenza dedicata. Allora, non è una frequenza libera, è una frequenza dedicata, e con questo eliminiamo la possibilità di rumore nella radiofrequenza. E per questa frequenza dedicata dobbiamo fare un partenariato con una telecom. Quello si è fatto in Inghilterra e abbiamo vinto una gara importante dal governo, dall'UK, per dare il servizio, per fare questa infrastruttura radio per il nord dell'Inghilterra più la Scozia. Stiamo parlando di arrivare a 10 milioni di case e 16 milioni di contatori. Ci fermiamo qui per ora, ci diamo appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.